valinga di braccia, quanta lacrima ardente in pecchi sfugge con passa faccia. Contra il tuo cuore non sana, di far ricordo l'ora c'erano secola a me per te. E mo dopo andanno ambamma, senza lacrime, senza nemiche, ma parlando e ti tiempo andammo da fuori ma felice piangendo a così. Cato soltanto tanto potere, senza giurarmi grido che tu con mica si mai crudele. Ma com'è strana l'ombra e la pena, che quando allontana la vita e lacrime più bella fa. Emmo dopo campanne, campamme, senza lacrime, senza nemiche, ma parlando e di tempo campamme, da voi me felice, piangendo la così. Are you?